sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Regionali, resta il caos per la presentazione delle liste nel Lazio ed in Lombardia, guerra di ricorsi. La prima commissione del CSM a Berlusconi, basta, attacchi alla magistratura. OGM cade la moratoria sulla coltivazione dopo 12 anni. Nuova frana nel Messinese, evacuate 120 persone a Caronia. Buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio. Dunque in primo piano le regionali ed il pasticciaccio delle liste PDL in due regioni. Prima sentiamo qual è la situazione. Due storie diverse, quelle dell'esclusione delle liste del PDL in Lombardia e Lazio. Se infatti il governatore Formigoni dovrebbe agevolmente superare il deficit di qualche centinaio di firme, più difficile sembra per il PDL a Roma rimediare all'esclusione dovuta alla mancata presentazione entro i tempi. Due storie diverse ma che hanno in comune il braccio di ferro tra i radicali e il centrodestra sul tema della legalità. Partendo dalle difficoltà avute dalle sue liste, Emma Bonino è riuscita a pizzicare il primo partito in Italia sul rispetto delle regole elettorali, mettendo a nudo, va detto, anche i limiti organizzativi del PDL. Regole quelle per la presentazione delle liste che ancora una volta dimostrano la complessità forse eccessiva del sistema democratico e della burocrazia in Italia, ma che, finché esistono, vanno rispettate. Regole queste, come altre, che proprio la politica avrebbe il compito di semplificare. Si potrebbe scommettere quasi a colpo sicuro che queste procedure non saranno riformate. Oggi perché siamo a ridosso del voto, domani perché ce ne saremo dimenticati. Speriamo di essere smentiti. Alessio Maurizio, GR24, il sole 24 ore. In Lombardia è una corsa disseminata di carte bollate, quella di Formigoni. Alle 14.30 scadono i termini per presentare ricorso contro la decisione della Corte d'Appello che ha escluso la lista per l'irregolarità nella raccolta delle firme. E intanto i radicali hanno presentato una nuova memoria chiedendo l'esclusione di altre firme, sempre della lista di Formigoni. Ma cosa dicono le norme? Anna Migliorati lo ha chiesto a Sandro Denardi, ricercatore di diritto costituzionale all'Università di Padova. La giurisprudenza si è occupata di violazioni di legge formali, però non tali da essere così gravi da dover escludere la sottoscrizione in questione. Ad esempio è il caso in cui manchi il timbro, uno dei timbri, in questo caso il timbro tondo, sul modulo. Perché? Perché in questa evenienza cosa succede? Succede che è certo che il cittadino elettore ha firmato per sostenere. C'è stata l'autenticazione della sua sottoscrizione, manca soltanto un requisito nel modulo che contiene la sua sottoscrizione. Questa però, va detto, è una giurisprudenza più recente, perché in passato invece la giurisprudenza era molto più rigida. Quindi succede che le corti d'appello sono molto rigorose, poi si va ai TAR che sono un po' più di manica larga dagli ultimi anni. Ecco, sì. Paradossalmente, se uno analizza le raccolte di giurisprudenza amministrativa sul punto, si rende conto che sono davvero numerosissimi i casi in cui si controverte. L'altro tema caldo è l'informazione, i talk show oscurati per un mese, stasera manifestazione in via Teulada, conduttori in rivolta. Cittadini orfani di talk show a sfondo politico per un mese, conduttori uniti nello sconcerto di una decisione che bollano come sbagliata. Ognuno con le dovute differenze, ognuno con le sue piccole polemiche, come quella fra Santoro, conduttore di Anno Zero, e Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta identifica come responsabile della decisione Rai di sospendere i dibattiti proprio il collega di Anno Zero. Lui minimizza. Ritengo che ci sia una portata simbolica in questo gesto che travalica Anno Zero. C'è un po' una maniera di mettere in riga la televisione, di mettere in riga i conduttori, ed è inedito che per la prima volta tutti i programmi vengano silenziati contemporaneamente. Non andranno in onda Porta a Porta, Anno Zero, Ballarò di Giovanni Floris e L'ultima parola di Gianluigi Paragone. Per me è soltanto un discorso di un eccesso di difesa del potere, ma questo vale a prescindere dagli schieramenti centrodestra, centrosinistra. Appena il palazzo può, cerca di accorciare la briglia, secondo il loro modo di pensare, all'informazione, ai giornalisti. La RAI sarà soffocata da tribune elettorali, la Federazione Nazionale della Stampa parla di clima fetido sull'informazione e il sindacato RAI studia possibilità di bloccare la delibera. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è la giustizia, nuova presa di posizione del CSM sugli attacchi del Premier, in diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, dopo il monito del capo dello Stato Giorgio Napolitano, questa volta il CSM a rispondere al Premier Silvio Berlusconi, basta attacchi ai giudici, dicono dall'organo di autogoverno della magistratura, basta con le denigrazioni generiche dei magistrati. E quindi questa è la richiesta della prima commissione del CSM che ha approvato una bozza all'unanimità riguardo agli attacchi del Presidente del Consiglio. Ai relatori è stato poi affidato il compito di redigere un testo definitivo sull'appello di Napolitano e sugli atteggiamenti del Premier, delegittimanti l'intero ordine giudiziario che verrà esaminato poi dal plenum del CSM. Si conclude così l'esame della pratica a tutela della magistratura dopo le continue dichiarazioni di Berlusconi. Il fascicolo raccoglie tutti gli attacchi, prima contro i PM antimafia, poi la dichiarazione a Ballarò in cui il Presidente del Consiglio aveva parlato di PM comunisti, per poi finire anche alle ultime esternazioni sui PM talebani pronunciati venerdì scorso a Torino. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta, è giornata cruciale oggi per il cardine dell'inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Roma che ha travolto Fastweb e Telecom Sparkle. Nel carcere di Regina Coeli in corso l'interrogatorio di Silvio Scaglia, che esclude ogni responsabilità nella vicenda del presunto maxi riciclaggio. Ha detto che la società è invece una vittima di questa situazione. Oggi si è anche costituito l'avvocato Paolo Colosimo. L'Aula del Senato intanto voterà domani intorno a mezzogiorno le dimissioni presentate dal senatore del PDL Nicola Di Girolamo, per il quale la magistratura ha chiesto l'arresto. In commissione antimafia oggi si discute di intrecci mafia-politica. In diretta Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Un episodio che ha inquietato l'opinione pubblica ma che deve interessare soprattutto noi per la realtà che ci rappresenta. Così ha concluso la sua relazione Giuseppe Pisano, presidente della Commissione parlamentare antimafia, oggi riunita a Palazzo Macuto per discutere, come dicevate, dei rapporti fra organizzazioni criminali, politica e economia, soprattutto dopo il caso di Girolamo, il senatore PDL accusato di collusione con 'Ndrangheta calabrese. Per Pisano è giunto il momento per un dibattito sull'ammodernamento dell'apparato normativo antimafia ed è ora, dice, di nuove proposte legislative al Parlamento. Per il Presidente della Commissione, se il Governo e la magistratura hanno fatto molto contro la mafia, 7 miliardi di euro sono i beni sequestrati nel primo scorcio della legislatura, tuttavia questo non è sufficiente se il fatturato della criminalità organizzata ammonta a circa 140 miliardi di euro ogni anno. Una mafia che oggi investe sempre più all'estero, si occupa di finanza pura, si adegua ai contesti. Rispetto per le scelte della magistratura e del Senato sul caso di Girolamo, dice anche Pisano, che parla a questo proposito di segretezza e unicità del voto violato, già messa in pericolo dalla legge che regolamenta il voto all'estero, fatto che però rappresenta un attenuante. Lo Stato non deve inseguire la mafia ma prevederla, invita ancora Pisano, che ha annunciato anche scrupolosi controlli dopo le elezioni regionali. E da Roma è tutto, in linea a voi. Grazie Maria Chiara, e noi ci spostiamo a Napoli, dove il quotidiano Il Mattino anticipa che sarebbe stata avviata un'indagine conoscitiva su alcuni candidati. E allora, per saperne di più, ci colleghiamo in diretta con Napoli, con Laura Viggiano, che dovrebbe avere anche un ospite d'eccezione. Laura? Sì, buongiorno. La campagna elettorale anche in campagna è appesantita da tensioni e dall'ombra delle indagini su presunte commissioni tra criminalità e politica. Oggi si parla di una nuova indagine della DDA partenopea sui candidati alle prossime regionali e provinciali. Siamo con il capo della Procura di Napoli, Giovanni Domenico Lepore. Procuratore, ci può dire qualcosa in più? Sono state acquisite le liste? Assolutamente no. Noi facciamo indagini non conoscitive, come si vuol dire, erroneamente sulle liste elettorali, queste fanno parte del compito delle commissioni elettorali. Noi facciamo indagini soltanto su ipotesi di reato e quindi naturalmente se c'è un'ipotesi di reato noi procediamo e naturalmente facciamo un'indagine necessaria. L'attenzione comunque è molto alta oggi e si può parlare di ipotesi di reato? Ma io allo Stato non vedo un'attenzione, si parla soltanto di presenza nelle liste di persone che hanno qualche precedente giudiziario o penale, ma fino ad oggi non mi pare che ci siano ipotesi di reato denunziate. La Procura comunque continuerà a guardare con attenzione qualsiasi cosa? Indubbiamente noi non soltanto guardiamo e siamo attenti e vigili sulle elezioni, che naturalmente costituisce un fatto particolare, ma in effetti su qualsiasi ipotesi che si possa creare un illecito penale, quindi siamo obbligati a intervenire. Ringraziamo il procuratore Lepo, linea allo studio. Grazie a Laura Avigiano e noi torniamo a Roma per il congresso della UIL. Come mi chiamano? La rivista, la bieca rivista. Ma la crisi non fa distinzioni, quindi la crisi mette tutti in pari, tutti i colleghi, come la livella di Totò, no? E perciò sono anch'io in cassa integrazione, come loro, come i miei colleghi, né più né meno. Ci sono dentro e non so se e quando potrò uscirne. Quello che avete sentito è il monologo che ha aperto questa mattina i lavori del 60° congresso del sindacato di Angeletti. Autrice la nostra Elisabetta Fiorito, interprete Rosaria De Cicco. Crisi economica dunque al centro dei lavori, in diretta dal congresso Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. E lanciando un forte allarme occupazione che Luigi Angeletti apre il 15° congresso della UIL nel 2010, sono a rischio più di 200.000 posti di lavoro, dice il segretario, mentre quest'anno si sono stati evitati 400.000 licenziamenti grazie al complesso degli ammortizzatori sociali. Per il futuro, se si vuole evitare un disastro economico e sociale, continua Angeletti, occorre mettere in campo tutte le risorse necessarie. Per questo la UIL, in occasione del suo 60° anniversario, lancia l'idea di una grande alleanza, una vera e propria strategia per l'occupazione che coinvolga in un tavolo permanente il governo e tutte le forze sociali e produttive del paese e che si ponga obiettivi concreti a partire da quelle riforme annunciate mai attuate, innanzitutto quella del fisco, una riforma che la UIL vuole nel segno di una riduzione della pressione sul lavoro dipendente, di una maggiore tassazione delle plusvalenze finanziarie, dell'IVA sui beni di lusso e di una più efficace lotta all'evasione. Ad ascoltare la relazione di Angeletti, 1250 delegati della UIL, esponenti del mondo politico come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta e ministri Sacconi e Matteoli, presente anche la numero uno di Confindustria Emma Marcegaglia. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra. Noi parliamo di auto. General Motors ha annunciato il richiamo di migliaia di vetture vendute negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per problemi legati allo sterzo e alla tenuta di strada. La GM assicura che le vetture sono sicure ma che possono essere riscontrate delle difficoltà nella guida a velocità molto ridotte. E la notizia arriva nel giorno d'avvio del Salone dell'Auto di Ginevra, con il quale ci colleghiamo in diretta con il nostro Andrea Malan. Andrea, buongiorno a tutti. Allora, quali sono le novità? Oggi è un po' la giornata italiana importante della Fiat. Sì, oggi è una giornata importante per la Fiat, che oggi pomeriggio lancerà soprattutto la nuova Alfa Romeo Giulietta, un modello su cui la casa del Biscione punta molto per rilanciarsi, che è il modello che sostituirà la 147 e che è già esposto qua. L'abbiamo già visto, una quattro porte molto sportiva in tipico stile Alfa Romeo. Ci sono ovviamente un sacco di novità da parte di tutte le case che cercano un po' di lasciarsi alle spalle almeno per un giorno la crisi incombente sul mercato europeo. Il tema principale del salone, come già nei saloni precedenti, è quello dell'ecologia, quindi i costruttori fanno a gara nel presentare auto ibride o elettriche che dovrebbero arrivare sul mercato, diciamo, tra la fine di quest'anno e il 2013. Ovviamente per quelle ibride il problema è solamente il costo. Sappiamo che finora solo Toyota e Honda hanno conseguito volumi significativi in questo campo, e anche se non comunque in Europa, dove la concorrenza del motore diesel è molto forte. Per quanto riguarda l'elettrico, ci vuole ancora un po' di pazienza per vedere i primi modelli sulla strada e per capire quanto invece peseranno sulla diffusione delle auto elettriche, oltre che il problema dell'autonomia limitata e il costo elevato, anche la carenza di infrastrutture. Da questo punto di vista sarà forse questo il punto fondamentale da verificare nei prossimi anni. Grazie ad Andrea Malan da Ginevra. Le 13:18, ancora una buona giornata dalla redazione, da Anna Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato delle elezioni regionali, resta il caos per la presentazione delle liste, nel Lazio ed in Lombardia è guerra di ricorsi. Abbiamo parlato anche di giustizia, della prima commissione del CSM che ha rivolto in un documento un appello a Berlusconi, basta attacchi alla magistratura. E poi si è concluso l'interrogatorio a Regina Celi proprio pochi minuti fa per il fondatore di Fastweb Scaglia, che si è detto estraneo alle accuse. La società è vittima, ha dichiarato: non ho mai conosciuto Mokbel. Ora però andiamo all'estero, in Cile. 2 milioni di persone colpite dal sisma, sfollati, case distrutte, quartieri incomunicati per giorni, e la fame, la rabbia, l'impotenza di chi aspetta un aiuto che non arriva, inspiegabilmente non arriva. In Cile cresce la polemica per l'incredibile disorganizzazione della macchina dei soccorsi, proprio quando iniziano ad arrivare i primi aiuti internazionali. Oggi atterra all'aeroporto di Santiago il presidente peruviano Alan García con 3 velivoli e 30 tonnellate di viveri, medicine, ospedali da campo. Il governo cileno ha fornito ad ambasciatori di diversi paesi la lista delle esigenze urgenti. Ma nel frattempo a non funzionare è la rete interna, la comunicazione fra la capitale e le zone colpite dal terremoto. Difficile trovare una ragione perché le strade funzionano, le condizioni climatiche sono quasi ovunque buone. Polemiche anche sul numero di morti e dispersi, poco più di 700 le vittime, appena 14 dispersi secondo le cifre ufficiali, quando nei paesi della costa devastata dallo tsunami la lista di chi manca l'appello è invece di centinaia di persone. Massima allerta oggi su Concepción, dove i disordini e saccheggi continuano nonostante il coprifuoco militare esteso fino a mezzogiorno. Il governo ha promesso che oggi si potrà iniziare a distribuire acqua potabile. La gente però chiede fatti concreti in una città segnata dal caos e dalla disorganizzazione. Emiliano Guanella, GR24, Sole 24 Ore, Talca, Regione del Maule, Cile. Repressione a Teheran, arrestato Jafar Panahi, il regista iraniano vincitore del Leone d'Oro a Venezia, una delle voci più critiche del presidente Ahmadinejad, in carcere con lui la moglie e la figlia. Leone d'Oro per il miglior film. Il vincitore è Diarré, il cerchio di Jafar Panahi. Leone d'Oro a Venezia nel 2000, nel 2003 premio della giuria nella sezione Un certain regard a Cannes, nel 2006 Orso d'Argento a Berlino. È stato arrestato a Teheran il regista iraniano Jafar Panahi insieme alla moglie e alla figlia. Erano stati arrestati già una prima volta e poi rilasciati a luglio dell'anno scorso mentre prendevano parte a una commemorazione di Neda, la giovane uccisa durante una manifestazione. A settembre era stato presidente di giuria del Festival dei Film del Mondo di Montréal, dove era stato accolto da una folla di giovani vestiti di verde, il colore della protesta contro il regime. Poi però gli è stato vietato di lasciare il paese per essere presente al Festival di Mumbai in ottobre e soprattutto a Berlino poche settimane fa. Doveva partecipare a un dibattito sul presente e il futuro del cinema nel suo paese, ma non gli è stato permesso. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea ha deciso oggi a Bruxelles con procedura scritta l'autorizzazione alla coltivazione della patata geneticamente modificata Amflora prodotta dalla multinazionale Bayer. La decisione mette fine all'embargo sulle nuove colture OGM che resisteva nell'Unione europea dall'ottobre del 1998, si è detto contrario il ministro Zaia. Italiano rapito da Al-Qaeda, l'Italia mi aiuti, secondo voi si deve trattare con i terroristi? Era la domanda di Bianconero. L'ultimatum fissato dai rapitori è scaduto, dal Ministero degli Esteri non trapela nulla, ma sotto sotto una trattativa è in corso. La vita dell'italiano Sergio Cicala e della moglie Filomena, rapiti il 18 dicembre scorso e tenuti in ostaggio in Mali da uomini di Al-Qaeda, è appesa a un filo. Due giorni fa un appello audio dello stesso Cicala che implorava il governo a fare concessioni ai terroristi è stato scovato su internet. E come al solito in questi casi si pone il dubbio, ma è davvero giusto trattare coi terroristi per salvare vite umane? Il 73% dei nostri ascoltatori pensa di no. Chi ci è passato, come la giornalista Giuliana Sgrena, rapita 5 anni fa in Iraq, invece sostiene. Intanto se io sono qui è perché c'è stata una trattativa, quindi come potrei essere contro la trattativa? Dopodiché io penso che anche tutti i paesi che dicono che non trattano, trattano. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Inflazione a febbraio ha lievemente rallentato il passo, attestandosi all'1,2% contro l'1,3% di gennaio. Su base mensile i prezzi sono cresciuti dello 0,1%. Hanno record intanto per la lotta all'evasione fiscale. 9 miliardi e 100 milioni di euro è l'incasso messo a segno nel 2009 dalla lotta all'evasione fiscale, un risultato record pari al 30% in più rispetto al 2008. Complessivamente nel biennio sono stati incassati 16 miliardi di euro, risultati positivi frutto dell'impegno dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, ha detto il direttore Befera, che spiega. Noi abbiamo fatto una strategia diversificata per settore economico, ma anche per tipologia di contribuente, quindi grandi imprese, medie e piccole imprese, persone fisiche, lavoratori autonomi e così via. E qui si è un po' diffusa un po' dappertutto l'evasione, questo lo sappiamo, la grande piaga italiana. Diversificando le strategie riusciamo a colpire meglio e credo che i risultati ci stiano dando ragione. I cosiddetti blitz degli ispettori del fisco sono stati 9.000 e hanno portato ad accertare IVA evasa per 673 milioni e imposte dirette per 6,9 miliardi. Per il 2010 l'agenzia garantisce che punterà al consolidamento di questi risultati. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. La cronaca dalla Sicilia, frana ancora la terra nel messinese, situazione seria. Frana ancora la terra in provincia di Messina, questa volta a Caronia, nelle contrade di Rineri e Ricchio, dove a partire dalla mezzanotte di ieri sono state fatte evacuare oltre 120 persone. Il fronte franoso è ampio, circa 50 ettari, la terra continua da stanotte a scendere ad una velocità di 7 cm l'ora, minacciando le abitazioni sottostanti. Scene analoghe a quelle di qualche settimana fa a San Fratello, strade squarciate, case con grosse crepe in vista. Anche a Caronia è stato dichiarato inagibile un edificio scolastico. Gli studenti dell'istituto stamani hanno trovato le porte sbarrate. L'edificio simbolo invece è una villetta, per fortuna disabitata, che la massa di terra ha letteralmente spazzato via come fosse di cartone. Al momento è in pericolo anche un residence dove abitano circa 18 persone, ma il fronte franoso avanza inesorabilmente. Intanto al comune del centro nebroideo è in corso una riunione tra il sindaco, i vertici della protezione civile e le forze dell'ordine. Si discute su come organizzare al meglio la macchina dei soccorsi in attesa che la frana si fermi e si possano programmare gli ulteriori interventi. Nadia Maio, GR24, Il Sole 24 Ore, Messina. In classe con la pistola a salve, prima la punta contro un compagno, poi spara contro alcuni cassonetti nei pressi della scuola. È accaduto nel quartiere napoletano di Pianura, nella scuola Palasciano di via Padula. Il ragazzo aveva indosso una pistola semiautomatica calibro 8, priva del tappo rosso. Ci spostiamo a Milano, parliamo di moda. Meglio fare invidia che compassione, ha detto il presidente della Camera Nazionale della Moda, Mario Boselli, facendo riferimento alle polemiche che hanno caratterizzato il calendario di sfilate di quest'anno. Il suo bilancio al microfono di Adriana Fracchia. Credo che questa edizione di Milano Moda Donna, partita fra le polemiche, si sia conclusa positivamente. Abbiamo avuto 4 giorni pieni, anche con la stampa internazionale, grandi marchi, 2 giorni un attimo meno intensi, e quindi per il futuro si dovrà cambiare. Siamo già al lavoro, io sono ottimista che per settembre avremo un calendario articolato su 7 giorni, dei quali almeno 6 molto pieni. Ecco, lei ha detto: se riceviamo tanti attacchi perché siamo i più bravi al mondo e diamo fastidio. Questo è assolutamente vero. La mia valutazione, suffragata da tanti riscontri, è che è in atto uno scontro fra editoria e moda di oltreoceano, quindi parlo soprattutto New York, ma più in generale il mondo anglosassone, versus l'asse italo-francese, con particolare accanimento contro l'Italia, perché come siamo i più bravi e i più forti, evidentemente siamo quelli anche più attaccabili, perché suscitiamo invidia. Ecco, l'Italia è quella grande macchina che produce lungo una filiera tessile, abbigliamento, moda, che è ancora su 60 miliardi di fatturato annuo, con un saldo attivo della bilancia commerciale del settore superiore a 11 miliardi, 700 mila addetti, 70 mila imprese. Ecco, siamo i primi al mondo. Chiudiamo con il calcio, notizia di poco fa, sorpresa: Marcello Lippi apre un timido spiraglio per un clamoroso ritorno di Alessandro Nesta in nazionale. Io ci spero ancora, ha detto il CT con un sorriso, prima di chiudere poco fa una veloce conferenza stampa alla vigilia di Italia-Camerun. Era l'ultima notizia di questa edizione, la prossima alle 14, grazie in regia a Pietro Lacorte, vi lascio ad Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.